30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Andremo dove ci portano i fatti e non necessariamente dove ci conducono i sogni. Norman Augustin, ex chief executive di Lockheed Martin, è l'uomo chiamato dal presidente Barack Obama a fare i conti in tasca alla NASA e a fornire al 44esimo presidente degli Stati Uniti gli elementi per tracciare la sua strategia. La commissione deve valutare i progressi dell'Agenzia Spaziale Americana nella preparazione della flotta che dovrebbe sostituire gli shuttle. Un modo neanche tanto velato per dire che tutto il progetto Luna entro il 2020 lanciato da Bush nel 2004 è congelato in attesa di valutazione presidenziale. Buonasera e ancora benvenuti a 30 minuti in cronaca. Oggi dunque parliamo di spazio, di progetti e di esplorazione. Il nostro ospite in studio è Roberto Vittori, 44 anni, colonnello dell'aeronautica, pilota di cacciabombardieri, da 10 anni astronauta italiano per l'Agenzia Spaziale Europea. Benvenuti innanzitutto. Grazie. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 4. Ecco, questo è il rombo, il rumore dell'ultima missione shuttle STS 125, quindi l'ultima in ordine di tempo, un momento emozionante. Io però vorrei chiedere a Vittori di portarci un altro luogo di lancio storico, quindi dagli Stati Uniti al Kazakhstan, quindi il poligono russo. Lei fu nel 2002 a bordo appunto della Soyuz lanciata nello spazio. Come ricorda quel giorno? 25 aprile del 2002, alla fine di un periodo di addestramento lungo 8 mesi passato a Star City, 8 mesi di preparazione teorica, fisica, esami, e l'inizio della quarantena, il trasferimento a Baikonur e poi quel risveglio alle 5 del mattino del giorno 25 aprile del 2002, rito, tradizione, si firma la porta della stanza all'interno della quale si è dormito la sera precedente e poi i preparativi per prima del decollo. Nello scendere dall'autobus fui sorpreso da una folla di persone che circondava il razzo e circondava l'autobus. Venni preso sotto braccio da Morgun, che era a quel tempo il capo della divisione medica dei cosmonauti a Star City, che fisicamente mi accompagna, se non addirittura potrei dire spingendo la folla, attraverso quel passaggio per poi accedere ai 3 o 4 gradini che separano la superficie terrestre dalla base del razzo. Quel tipo di vicinanza degli amici, parenti, degli stessi tecnici fa parte di quel anche abbastanza esplicito messaggio che ti fa sentire la partecipazione degli altri ad un momento che, seppur ripetuto ormai da 40 anni, rimane in ogni caso un'esperienza unica: l'uomo che va nello spazio. Un momento formidabile. Lei entra dunque nella Soyuz in compagnia di un cosmonauta russo, esperto, il comandante di missione. A un certo punto tutto si chiude e che cosa accade? Entriamo all'interno uno dopo l'altro la Soyuz. La Soyuz è piccola capsula in cima al razzo omonimo, 55 metri, tutto combustibile, un ascensore ci porta fino in cima. Alcuni tecnici ci aiutano ad entrare e scivolare all'interno dell'abitacolo della Soyuz, il modulo di comando, dopodiché chiudiamo il portellone e rimaniamo soli. Riuscire, indossando la tuta Sokol, a infilarsi, o meglio incastrarsi all'interno della posizione è estremamente difficile, complesso. Poi ci leghiamo con sicuramente qualche fatica. Aspettiamo 4 ore e poi inizia la parte finale del conto alla rovescia. 4 ore di attesa. 4 ore di attesa, il tempo è necessario per la verifica di tutti i sistemi, degli impianti, in modo tale che ovviamente la sicurezza sia garantita al massimo. Conto alla rovescia, accensione dei motori. Devo dire che il momento dell'accensione dei motori, chiaramente identificata dalla conto alla rovescia che andava a zero, ha sorpreso la mia aspettativa, in quanto nel guardare il lancio dal di fuori l'immagine visiva delle fiamme e il rombo è quello che più colpisce. Invece, essendo in cima al razzo, tutto questo è minimamente percepito. In effetti alcune vibrazioni sono evidenti, però sono vibrazioni che in nessun modo tradiscono quella che è l'immagine visiva dello spettatore esterno di potenza e soprattutto questo rombo incredibile. Il boato che in qualche modo abbiamo sentito anche in maniera completamente diversa in un lancio shuttle. A un certo punto il lancio e l'orbita. Se la ricorda la sua prima immagine, il suo primo sguardo della Terra o dell'esterno appunto dall'orbita terrestre? Contro la rovescia accensione dei motori, a quel punto l'unica cosa evidente a parte le vibrazioni è e i russi utilizzano, credo che sia tradizione, un piccolo pupazzo attaccato a un elastico che dà una indicazione visiva dell'accelerazione del razzo stesso. I secondi passano, e i minuti passano lentamente fino al momento in cui si sente un'esplosione. Questa esplosione è accompagnata dalla luce che improvvisamente entra all'interno del modulo di comando. Infatti, al momento del decollo, la capsula è protetta da un involucro metallico che pochi minuti dopo il lancio viene fisicamente spaccata da delle cariche esplosive e a quel punto, per la prima volta, guardando con la coda dell'occhio attraverso l'oblò, si vede la Terra lentamente allontanarsi. Com'è? La Terra vista dallo spazio è una sensazione particolarissima, molto difficile riprodurre a parole e la sensazione dell'effetto tridimensionale della Terra vista dallo spazio e né tantomeno foto o filmati riescono a regalare quella incredibile accattivante vista il cui effetto tridimensionale può essere esclusivamente provato dal vivo. Ecco, essere astronauti, voglio dire, tutto questo lavoro, questa preparazione, ci saranno delle ragioni. Andiamo avanti. Eccoci dunque ritornati con questa canzone dal mondo spaziale russo a quello americano. Questa canzone dei REM, edita nel 92, di fatto ruota intorno a un ritornello che dice: ci credi davvero che, o meglio, se ci credi davvero che l'uomo sia stato messo sulla Luna? Perché intorno alla Luna, intorno all'esplorazione spaziale, negli anni si è raccontato di tutto, il contrario di tutto, e c'è anche chi, come questa canzone cita, pensa alla teoria del complotto e al fatto che sia così difficile, addirittura inconcepibile, raggiungere la Luna. Eppure, insomma, la maggior parte di noi ci crede e pensa che il 21 luglio del 69, appunto, Armstrong con l'Apollo 11 mise piede sulla Luna. Fu un'esplorazione tutto sommato breve la presenza dell'uomo sulla Luna. L'Apollo 17 con Eugene Cernan fu l'ultimo, il 14 dicembre del 72. Da lì una lunga attesa. Allora, Vittorio, quando ci torniamo sulla Luna? Difficile prevedere. Difficile prevedere quando troveremo di nuovo la voglia, la motivazione di tornare sulla superficie lunare. Ovviamente la domanda Luna perché deve trovare risposta prima di intraprendere una nuova avventura in quella direzione. Cioè avere la ragione per raggiungere. In quel caso, negli anni 60-70, c'era la sfida tra le due grandi potenze. Oggi probabilmente c'è una grande carenza di un perché. La Luna è il nostro satellite, il nostro compagno di viaggio nel girovagare della Terra attorno al Sole e del Sole all'interno del Sistema Solare. La Luna è estremamente vicina a noi, se riflettiamo sulle distanze degli altri corpi celesti. 380.000 chilometri è, come dire, dietro l'angolo. Io non sono stato sulla Luna, sono stato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale è un gioiello tecnologico, cooperazione tra NASA, Russia, Europa, Canada e Giappone. L'Italia ha un ruolo molto importante. 400 chilometri sono sicuramente una frazione dei 380.000 della Luna. Detto questo, sia Shuttle che Soyuz viaggiano a 28.000 chilometri all'ora, un numero molto grande. Questo significa che in realtà sia con lo Shuttle che con la Soyuz, in teoria, con queste capacità dell'oggi, siamo a poche ore di distanza dalla Luna. Quindi la Luna è un obiettivo tecnologicamente raggiungibile. la Luna potrebbe essere possibile. Ovviamente, prima di fare un passo di questo tipo, è necessario costruirvi attorno una motivazione. Negli anni 60 abbiamo dimostrato che è possibile. Oggi, a mio vedere, sarebbe interessantissimo andare sulla Luna per sfruttare le risorse che il nostro compagno ci potrebbe offrire alla nostra Terra. 30 minuti in cronaca. Ancora ben trovati a 30 minuti in cronaca. Oggi lo ricordiamo in compagnia di Roberto Vittori, colonnello dell'Aeronautica Italiana e astronauta per l'Agenzia Spaziale Europea. Due volte negli ultimi anni nello spazio con la Soyuz e molti progetti davanti di cui ora parleremo. Eravamo sulla Luna, almeno idealmente, ci stava spiegando che ci vuole una motivazione e parlava di minerali. Perché? La Luna perché? La Luna, la composizione del suolo lunare è molto simile a quella terrestre, quindi materie prime possono sicuramente essere estratte dalla Terra, ma anche dalla Luna. Ricerca sulla Luna, abbiamo grandi possibilità per la ricerca scientifica. La Luna, a mio vedere, è una grande opportunità anche per cercare di sollevare l'ecosistema terrestre da quell'utilizzo forte che stiamo facendo delle risorse, quali l'atmosfera e l'acqua, gli oceani. Cioè un'alternativa anche di sfruttamento in tempi medio-lunghi. Un'alternativa in una prospettiva più o meno a lunga distanza. Faccio un esempio, ovviamente utilizzo un termine non corretto tecnicamente, ma che rende l'idea. Le città cominciano a maturare, a sviluppare il concetto di avere una zona industriale. E se nel proiettare verso il futuro la nostra società industrializzata ipotizzassimo di avere una zona industriale al di fuori di quella risorsa preziosissima che è l'atmosfera? Perché no? Sentiamo adesso un contributo per continuare anche questo ragionamento. Ne abbiamo parlato con Simona Di Pippo, che è direttore del volo umano per l'Agenzia Spaziale Europea. Con i partner internazionali stiamo lavorando già da un po' per cercare di farla diventare veramente una specie di avamposto da cui far partire anche, perché no, delle missioni verso la Luna o missioni comunque di preparazione all'esplorazione. Che ne pensa Vittoria? Dunque, questa è la funzione oggi della Stazione Spaziale Internazionale, che diciamo nella fase di phasing out dello shuttle ci spaventa un po', come dire, sembra quasi finito un ciclo tutto questo lavoro, per che cosa? Lo shuttle è previsto andare in pensione a breve. In realtà non credo che lo shuttle scomparirà completamente, almeno come disegno. Infatti il mondo aeronautico tende ad andare verso l'alto. Perché? Andando verso l'alto gli aeroplani possono andare più veloci, quindi percorriamo le stesse distanze in tempi più ridotti e i consumi sono anche inferiori. C'è un vantaggio nel riuscire a portare aeroplani a quote superiori a quelle degli aeroplani attuali. E lo shuttle altro non è che il progenitore del trasporto di futura generazione. Una grande eredità quella dello shuttle, una grande eredità anche legata sicuramente alla Stazione Spaziale Internazionale e al lavoro fatto anche sui tempi. L'idea di comunque di esplorare oltre la Luna significa mettere in conto dei tempi lunghissimi. Le due missioni, Marco Polo e Neide, erano entrambi per me esperienza di missione cosiddetta breve durata, 10 giorni. Le missioni tipiche di una lunga durata sono 6 mesi. 6 mesi è un periodo certamente lungo. Se ipotizzassimo oggi di partire per Marte, i tempi di percorrenza sarebbero dell'ordine di grandezza dei 6 mesi. 6 mesi ad andare, 6 mesi a tornare, più la permanenza. E tutto questo all'interno di una realtà molto, molto particolare. Innanzitutto i moduli delle navicelle spaziali sono estremamente piccoli come dimensioni, le risorse sono limitate. All'interno tutto è artificiale. È un ambiente sicuramente complesso e a questo va aggiunto anche la condizione di microgravità. Ricerche di varia natura, tra cui, sottolineo, quella medica, traggono grande beneficio dall'opportunità che la Stazione Spaziale Internazionale offre. Al contempo, però, per l'astronauta questa condizione, questa permanenza in microgravità è come esporre l'individuo a un processo di invecchiamento artificiale accelerato. La microgravità è opposta dalla condizione dinamica di un volo militare. Nel volo militare, il velivolo militare, nel momento in cui fa delle acrobazie, porta l'individuo a essere sottoposto a delle forti pressioni. I famosi G. La microgravità è l'opposto, è il galleggiamento. Tutto è fermo, nulla si muove, tutto galleggia. Quindi è completamente la sensazione opposta. Quello che effettivamente rimane ad accomunare due è la capacità dell'individuo di passare dalla condizione di normalità a questa condizione di straordinarietà. Così parlò Zarathustra, composto da Richard Strauss nel 1896. In realtà è diventato popolarissimo per l'impiego nella colonna sonora del film 2001 Odissea nello spazio. Lo spazio immaginato nel 1968 attraverso l'arte di Stanley Kubrick. Bene, sono passati 40 anni dall'uomo che mette piede sulla Luna. Esiste ancora una distanza enorme, naturalmente in quel caso era arte e fantasia. C'è in molti la sensazione che, insomma, la forte aspettativa dell'uomo rispetto allo spazio in realtà non abbia fatto i passi avanti che avremmo voluto. Dal punto di vista di un astronauta, invece, che cos'è che abbiamo veramente conquistato e dove possiamo arrivare in un ciclo, diciamo, ragionevole di vita dei prossimi 50-60 anni? Ragionavamo prima sull'età anagrafica, 44 anni. 44 anni è circa, più o meno, corrisponde con l'età dello spazio. 1961 Gagarin, la prima volta dimostriamo che l'uomo può sopravvivere nello spazio. 1961, dietro l'angolo, è il 1969. Neil Armstrong, astronauta americano, nel 1969 lascia l'impronta sulla superficie lunare. Quindi a distanza di 8 anni passiamo dal primo timido accenno ad uscire al di fuori dell'atmosfera fino a camminare sulla Luna. Un salto enorme, esattamente come lo definì Neil Armstrong. Un piccolo passo, un progresso gigantesco. Per l'umanità, infatti. Dal 1969 ad oggi, che cos'è successo? Se nel 1969 camminavamo sulla Luna, perché oggi non stiamo a fare questa intervista su Marte? Il progresso si è fermato, abbiamo fatto passi indietro. La stazione spaziale è il nostro laboratorio di ricerca. L'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea hanno un contributo importantissimo. Ma cos'è di innovativo in questo? Gagarin rimase in orbita per pochi minuti. Oggi, dal 2000, la Stazione Spaziale Internazionale è permanentemente abitata da astronauti. L'uomo vive nello spazio. Il progresso è enorme. Il salto da allora ad oggi è incredibilmente importante. Ovviamente è anche lecito auspicare che lo stesso esponenziale progresso possa non soltanto essere visto nel contesto della nostra capacità di lavorare e operare nello spazio, ma anche di allontanarci dal pianeta Terra. Quindi, ai prossimi 50 anni, la sfida: riusciremo a trovare, oltre a consolidare quello che abbiamo già sviluppato, cioè capacità di costruire, e mi piace ricordare che questa stazione spaziale, questo laboratorio incredibile per la ricerca scientifica, è costruito per una parte significativa proprio qua in Italia. È possibile che nei prossimi 50 anni riusciremo a superare quel collo di bottiglia tecnologico e arrivare su Marte e costruire colonie su Marte? Ovviamente, guardando indietro e guardando il progresso fatto dal 61 a oggi, la risposta è probabilmente sì. E lei? È pronto? Questa è una domanda molto più difficile. Ovviamente 44 anni è un'età relativamente giovane da un punto di vista dell'astronauta. Come la capisco? E quindi la risposta è Sono pronto, perché no? Grazie a Roberto Vittori di essere stato con noi a 30 minuti in cronaca. Ringrazio naturalmente anche Pietro Lacorta che ci ha seguito in regia. Come sempre su radio24.it, queste e le altre trasmissioni di Radio 24 per ascoltare e riascoltare. 30 minuti @radio24.it invece per i vostri messaggi. Un buon fine settimana a tutti.